giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ragazzina di 14 anni accoltellata da una coetanea al termine di una lite e ricoverata in ospedale. Successo ieri sera in strada nei pressi di un locale a Muggia. Rintracciata e fermata la presunta responsabile. Cominciato il deposito delle liste elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale. Oggi a mezzogiorno si chiude. Seguirà una settimana di verifiche per la missione al voto del 2 e 3 aprile. Rispetto è stato di diritto, baluardi contro la barbarie. Così il ministro dell'istruzione Valditara presente alla foiba di Basovizza assieme agli studenti. 250 negozi in regione hanno aderito alla prima edizione invernale del Sabato dello Sbaracco, il gran finale dei saldi con le super offerte di fine stagione. Gli autotrasportatori riuniti in assemblea esprimono preoccupazione per il passaggio ai motori elettrici imposto dalla UE. Bene la transizione, ma senza chiudere le ditte. In Serie A oggi impegno dell'Udinese al Friuli contro lo Spezia. In Serie C la Triestina torna a vincere battendo 1-0 la Juve Next Gen e non è più Cenerentola in classifica. Ai campionati mondiali di sci nordico in Slovenia, Alessandro Pittin con il 13° posto nella prima gara individuale di combinata nordica ottiene uno dei suoi migliori risultati degli ultimi anni. Le 8:31 minuti e 30 secondi in questo istante, buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 26 febbraio. In apertura diamo come sempre uno sguardo al tempo che ha visto un brusco peggioramento delle condizioni meteo dalla serata di ieri quando sulla costa, in particolare a Trieste e Gorizia ma anche sul Medio e Basso Friuli, è cominciato a soffiare un forte vento di bora accompagnato da scrosci di pioggia con un generale ribasso delle temperature. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte e nelle prime ore della giornata. Una trentina le chiamate al numero unico di emergenza fra le province di Trieste, Udine e Gorizia. Per alberi e pali caduti su strada, tettoie e recinzioni crollate, gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, barriere New Jersey e transenne rovesciate e cassonetti vaganti. I volontari di protezione civile sono intervenuti a Farra di Sonzo per un albero schiantato che è stato rimosso per consentire il ripristino della viabilità. Sempre a causa del forte vento e degli oggetti trascinati sulla strada a Trieste questa notte, per gli equipaggi di due ambulanze è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di oggetti che impedivano il transito. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla fino alle 12 di domani per vento anche molto forte, raffiche forti di bora, in particolare su Trieste e il Carso. Al momento si registrano raffiche comprese tra 50 e 72 km orari nella zona dell'Isontino, in area giuliana, vento forte anche in vetta fino a 40 km orari, previsto un aumento delle raffiche di vento durante la giornata di oggi. Ora il cielo è coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste ci sono 5 gradi con vento da est-nord-est, bora a 60 km orari con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 106 km orari. A Udine Gorizia 6 gradi, a Pordenone 5 gradi e mezzo, a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, a Tarvisio e Forni di Sopra meno 2 gradi e mezzo, a Piancavallo meno 3 gradi, a Sappada meno 4, sul Monte Zoncolan meno 9 gradi, sul Monte Lussari meno 10, sulla costa a Lignano 8 gradi, a Grado 6 gradi e 5 decimi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in genere nuvoloso, localmente anche coperto. Sulla costa soffierà bora forte, anche molto forte a Trieste e sul Carso. In pianura e sulla zona montana vento moderato sostenuto da nord-est, anche forte in quota. Sulle zone orientali saranno possibili delle precipitazioni, in genere deboli, specie fino al mattino, con quota neve in calo fino a 300-400 metri. Temperature in generale calo. In apertura dunque la cronaca, come avete sentito nei titoli, c'è stato un grave episodio che ha visto una ragazzina di 14 anni accoltellata da una coetanea al termine di una lite ed è ricoverata in ospedale, in condizioni comunque non gravi. È successo ieri sera in strada nei pressi di un locale a Muggia. Rintracciata e fermata la presunta responsabile, una quindicenne trovata a casa e portata in caserma dai carabinieri che stanno ricostruendo le fasi dell'episodio scoppiato, sembra per futili motivi. Sul caso si è mossa anche la procura dei minori. È entrata in una pizzeria piangendo e chiedendo aiuto e con una ferita fra la spalla e il petto. Perdeva sangue la 14enne accoltellata a Muggia. Nel locale è stata soccorsa ed è stato dato l'allarme. A colpirla una 15enne con cui aveva avuto una lite in strada poco prima delle 19. Subito sul posto un'ambulanza e un'automedica e la ragazza è stata portata all'ospedale infantile Burlo Garofolo. Le lesioni sono state inferte con un coltello, ritrovato successivamente dai carabinieri. carabinieri che in breve hanno identificato la giovane responsabile del gesto e l'hanno trovata già a casa. Sentita in caserma, sarebbero emersi motivi banali all'origine del litigio. Non in gravi condizioni la ferita, che guarirà in una settimana. L'episodio è all'attenzione della Procura per i minori di Trieste. Trieste, Antonio Caiazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Entro la settimana entrante dovrebbero essere pronte le schede per votare alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. L'ordine di apparizione sarà quello della presentazione delle liste, presentazione cominciata ieri mattina negli uffici della Regione a Udine e che si concluderà oggi alle 12. Nel primo dei due giorni di apertura degli uffici della Regione di Udine sono stati consegnati documenti per la maggior parte delle liste che saranno sulla scheda elettorale del 2 e 3 aprile. Si sono visti diversi leader e segretari di partito, per quella che non è solo una formalità. Il compito più semplice ce l'ha chi non deve raccogliere le firme a sostegno. Nell'ordine di presentazione Unione Slovena, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Patto per l'Autonomia, Autonomia Responsabile e Lega e Open. Diverso il discorso per il Terzo Polo, la Civica di Fedriga e Sinistra Verdi. Non essendo simboli già presenti nel Consiglio regionale uscente, le liste hanno dovuto allegare almeno 4.750 firme autenticate, il numero minimo per partecipare in tutte le circoscrizioni, cioè Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo. C'è stato il tempo anche per una stretta di mano cordiale tra i due dei candidati alla presidenza, Massimiliano Fedriga e Massimo Morituzzo, alla guida di centrodestra e centrosinistra. Li sfideranno altri aspiranti governatori, Alessandro Maran per il Terzo Polo e Giorgia Tripoli per Insieme Liberi. Ha annunciato la candidatura anche Andrea Zocche di Democrazia Sovrana e Popolare. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E oggi anche in Friuli Venezia Giulia si vota per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Eli Schlein. Sul voto incombe l'incognita affluenza e le condizioni meteo odierne. I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20, così come in tutta Italia. Gli studenti che hanno vinto il concorso sulle tragedie del confine orientale hanno visitato ieri il monumento della Foiba di Basovizza, accolti dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Con il ministro, gli studenti di alcune scuole medie superiori italiane, tra cui la Giovanni Pascoli di Caneva Polcenigo, vincitori del concorso nazionale 10 febbraio Amate Sponde, ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo. In questo luogo dove ci sono state tante vittime di una barbarie infinita, ecco, io voglio veramente lanciare questo segnale forte. Dobbiamo tutti insieme difendere i valori della democrazia, della pace e soprattutto che qualunque essa sia, la persona umana deve essere difesa da ogni barbarie. E proprio in questo periodo in cui la guerra sta tornando nel nostro continente. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Sconti fino all'80% nei negozi della regione nella giornata cosiddetta dello sbaracco che ha chiuso la stagione dei saldi. È tornato lo sbaracco, il saldo dei saldi, il fuori tutto per chi ha caccia di occasioni, per la prima volta in inverno e per la prima volta in tutta la regione. I negozi che aderiscono a questo Black Saturday del Friuli Venezia Giulia, organizzato da Confcommercio Federmona, sono più di 230 e 50 soltanto a Trieste, sparsi a macchia di leopardo tra il centro e la periferia. Per riconoscerli, appesa fuori, c'è la bandierina di Confcommercio, l'Aquila di Calimala, su sfondo blu, oltre a cartelli inequivocabili. È un'iniziativa che serve, il cliente sa che trova gli affari che non trova negli altri sconti, cioè sono proprio gli sconti degli sconti. Come sta andando? Ma tutto bene, tanta gente, tanto movimento, quindi sì, benissimo. Quindi conviene fare lo sbaracco? Sì, conviene, sì, l'abbiamo fatto anche gli altri anni, è sempre andata bene, quindi sì. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnali di preoccupazione dall'Assemblea della Federazione degli Autotrasportatori che si è riunita ieri a Udine. Il lavoro è calato e molti degli oltre 130 associati in regione sono in difficoltà. Sì alla transizione ecologica, ma senza far chiudere le imprese, è uno degli appelli lanciati dall'Assemblea della FAI, Federazione degli Autotrasportatori Italiani, riunita a Udine, sul quale nel comparto dell'autotrasporto si sta facendo fronte comune. Il passaggio all'elettrico a tappe forzate imposto dall'Unione Europea non è sostenibile, afferma Giulio Zilio, segretario regionale dell'associazione di categoria, che in regione rappresenta oltre 130 imprese. Mancano, dice, le infrastrutture e soprattutto le risorse per aiutare le imprese a alla conversione. Gli autotrasportatori sono una categoria che è molto cambiata negli ultimi anni, investendo sempre risorse per cambiare i mezzi. Non è però possibile prevedere un passaggio così forte a motori elettrici abbandonando i motori endotermici. Non c'è proprio una sostenibilità economica. Altri nodi in discussione all'Assemblea, la cronica assenza di autisti, il caro gasolio e da ultimo una contrazione dell'attività lavorativa che sta destando preoccupazioni e spingendo soprattutto i medio piccoli al ricorso alla cassa integrazione. Confindustria ritiene tuttavia sia dovuta non a un rallentamento dell'economia ma a situazioni localizzate. L'autotrasporto intanto è alle prese con crescenti problemi finanziari, rimarca ancora Zilio, che richiama anche l'urgenza di stanziare i quasi 300 milioni di ristori assegnati al comparto per i maggiori costi che stanno sostenendo le imprese. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Palmanova è stata ufficialmente designata dal Ministero della Cultura come uno dei 5 siti nazionali, l'unico del Nord-Est, destinatari dei finanziamenti legati al progetto Recovery Art. L'area dell'ex caserma Montezemolo sarà trasformata in un deposito per opere d'arte con annessi laboratori di restauro. Per realizzare le strutture necessarie, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede di destinare 30 milioni di euro, ma il progetto complessivo di riqualificazione prevede un investimento pari a 49 milioni di euro. Passiamo allo sport con il calcio. Oggi alle 18 l'Udinese affronterà in casa lo Spezia nel 24esimo turno di Serie A. Alla vigilia del match, come di consueto, mister Sottil ha tenuto una conferenza stampa. Sentiamolo. La settimana è stata una buona settimana all'insegna del lavoro, della concentrazione nel preparare al meglio la partita di domani. Ma la Spezia è una buonissima squadra, l'ho già detto all'andata, è una squadra che secondo me è una rosa molto competitiva, è una squadra che ha problemi di classifica, adesso ha cambiato allenatore, è arrivato un allenatore comunque esperto della categoria che porterà sicuramente entusiasmo, concetti, idee, e quindi mi aspetto una partita tosta, una partita dura, perché lo sono tutte le squadre giustamente in ogni gara cercano di raccogliere punti per il proprio obiettivo. In Serie C un gol di Tavernelli dopo appena 5 minuti di gioco ha permesso alla Triestina di conquistare una preziosa vittoria interna contro la Juve Next Gen e di tornare alla vittoria allo Stadio Rocco dopo un digiuno di 40 giorni. Migliore in campo il portiere alabardato Matošević, autore di parate decisive. Nel finale annullato per fuorigioco a Tessiore il gol del 2-0. La Triestina sale così a quota 26 in classifica ed è penultima, scavalcando il Piacenza che giocherà oggi contro il Trento. Il Pordenone scenderà invece in campo nel posticipo di domani in trasferta contro la Feralpi Salò. Ai campionati mondiali di sci nordico in corso a Planizza in Slovenia, buona prestazione per Alessandro Pittin nella sua prima gara individuale di combinata nordica. Il 13° posto è uno dei suoi migliori risultati degli ultimi anni e il terzo miglior risultato in carriera in un mondiale. Nello sci di fondo 18° posto per la Carnica Cristina Pittin nel duathlon 7,5 km più 7,5 km nelle due tecniche, nel salto del trampolino e 40° Francesco Cecon. Oggi torneranno in gara Pittin e Cecon, il primo al mattino nella staffetta mista di combinata e il secondo nel pomeriggio nella gara a squadre mista di salto. Pallanuoto nella semifinale per il 5° posto delle Fananei di Coppa Italia a Genova, la Pallanuoto Trieste ha battuto il Posillipo per 11-9. Oggi è in programma la finale per il 5° posto con la vincente di 5° Genova, Telimar Palermo. Per il basket in A2 maschile l'APU Old Wild West Udine gioca oggi alle 18 a Chieti. In A2 femminile la Delser Women APU ha ottenuto una sofferta vittoria contro Bolzano per 59-52. Futurosa Trieste doppiata in casa dalla capolista Milano con un pesante 36-72. Fermo il campionato di A1, ieri la Pallacanestro Trieste ha vinto per 86-69 la gara amichevole contro gli sloveni di Donzale. In amichevole sempre ieri la Gesteco Cividale ha disputato un buon test senza punti e risultato fuori casa contro la Reyer Venezia. Per la pallamano nell'ottava giornata del girone di ritorno del campionato la Pallamano Trieste ha perso in casa contro la capolista Piano per 24-29. Volley per la due maschile la Tinet Prata ha battuto per 3-7-2 la Consar Ravenna ed è nona in classifica in piena zona playoff. Torna dopo 4 anni l'UNESCO Cities Marathon FVG, la maratona delle città dell'UNESCO. L'edizione è la numero 8 con un percorso nuovo di zecca. Partenza e arrivo saranno a Palmanova nella scenografica Piazza Grande e poco dopo metà gara gli atleti transiteranno per Aquileia, due città patrimonio dell'UNESCO unite nel segno dello sport. Start alle 9:30 tra gli iscritti atleti di una decina di nazioni. Sulle strade della storia ci sarà spazio anche per la seconda edizione della Julia Augusta Half Marathon, prova sui 21,97 km della mezza maratona in contemporanea con la gara sulla distanza regina. Per l'UNESCO in rosa la corsa con fini benefici dedicata alle donne, per il Nordic Walking e per la Special Run la passerella degli Special Olympics. Organizzata dalla Libertas Grion Sere Manzacco, si disputa al Parco al Ponte di Sal di Povoletto la 35esima edizione del Memorial Giacomo Romano, storica gara di corsa campestre che quest'anno assegnerà i titoli regionali individuali che sveleranno i nomi, maschili e femminili, degli atleti e delle atlete in grado di ben figurare ai campionati italiani di campestre che si terranno a Gubbio a metà marzo. Oltre ai campioni ci sarà spazio anche per tutte le categorie giovanili. Il via alle 9.30, attesi circa 500 atleti delle categorie giovanili e assoluti. Gli eventi storici significativi nell'arco di un secolo che hanno caratterizzato i vari sport di squadra triestini saranno illustrati in un docufilm Trieste e lo sport, 100 anni di eventi, di Dario Roccavini, che sarà proiettato alle 10.30 nella sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio Porto Vivo a Trieste. Ingresso libero fino all'esaurimento dei posti a partire dalle 10. Il docufilm illustra tutti gli scudetti tricolori, sia in campo maschile che femminile, e gli eventi significativi nell'hockey su pista, pallamano, pallacanestro, pallavolo, flag football, tennis e tennis tavolo a squadre, softball, pallanuoto, hockey su prato, hockey inline, assieme alle vicende storiche nel baseball, rugby, football americano e quelle riguardanti la Triestina nel calcio. Alle 8.46 minuti diamo uno sguardo alla rassegna stampa, cominciando dalla prima pagina del Piccolo edizione di Trieste. Porto Piccolo, sfrattati i gestori di hotel e spa nella baia di Sistiana. La proprietà ha cacciato per inadempienze la società che aveva in gestione l'hotel, la spa e altre realtà inserite nel comprensorio. La preoccupazione degli imprenditori per le disdette. Verso le regionali, con le prime 12 liste per Fedriga, Morettuzzo e Maran, il ministro Valditara, la foiba di Basovizza, ieri chiede di non dimenticare. A centropagina poi la fotonotizia con il nuovo vescovo di Trieste, Don Enrico Trevisi, che dice ai fedeli: chiamatemi Don Enrico, imparerò con voi triestini. Infine lo sport, calcio, l'Unione conquista finalmente 3 punti a Rocco e non è più ultima. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine è dedicata allo studio della CGA di Mestre. Famiglie e risparmi, l'inflazione taglia oltre 6.000 euro. Nella fotonotizia la stretta di mano fra Massimiliano Fedriga e Massimo Morettuzzo nel giorno della presentazione delle liste. In città domani cominciano i lavori di asfaltatura in Viale Venezia. Altri richiami sono per i ladri negli spogliatoi dell'Udinese e per il 77enne deceduto a Gemona. Riescono a rianimarlo 2 volte dopo l'infarto, poi muore all'ospedale. A Codroipo e Mereto in 2.500 restano senza medico di base, mentre a San Vito al Torre si dimettono in 7 e cade la giunta. Di piede una notizia da Palmanova, cittadella dell'arte, nell'ex caserma Montezemolo. Sul Gazzettino di Udine richiamo in prima pagina per le carte d'identità, uffici a rischio stallo per le richieste. In cronaca spazio alle elezioni, da una parte ultimo giorno per depositare le candidature per la regione, dall'altra scuole chiuse per i seggi, gli studenti al museo. Di piede lo sport, per l'Udinese Sottil dichiara i tifosi saranno l'arma in più. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, falliti i gestori del mega hotel di Monfalcone, la sentenza del tribunale, slitta la riapertura dell'albergo inaugurato nel 2021, bloccati anche i lavori di ampliamento della struttura. A centropagina poi la fotonotizia sul nuovo Palabigot che si svela, il caro materiali pesa, sì al progetto ma ridimensionato. Di spalla nella cronaca caporalato nelle vigne, produttori increduli dicono alzeremo la guardia. 32 migranti stipati nella cisterna, arrestato il passere, erano stipati all'interno di una cisterna in vetro resina in condizioni disumane, nessun ricambio d'aria, il mezzo arrivava dalla Slovenia. Infine a Grado, assegnati ai circoli 330 posti barca, in pratica confermati quelli già esistenti, non accolta la richiesta del direttore della riserva di caccia. Nell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, accanto allo studio della CGA di Mestre e alla presentazione delle liste per le regionali, il bilancio del primo giorno di targhe alterne a Sacile, controlli ma niente multe. Per la cronaca tentato scippo e rissa, ancora episodi di violenza in centro a Pordenone. Ad Aviano ha trovato anche Eternit tra i rifiuti abbandonati vicino all'area del Rogo e a Prata 2 patenti ritirate dopo l'alcol test e una segnalazione per droga. Infine Maniago con la decisione del comune di chiudere il campo dell'area Violis. Di piede il calcio, fatti in 2 giorni 200 abbonamenti per il Pordenone. Il Gazzettino di Pordenone richiama in prima pagina il tema delle risse in centro, il questore annuncia il presidio fisso. Nelle pagine di cronaca una fotonotizia su un'idea imprenditoriale, dall'enoteca alla libreria l'idea made in Sacile. E poi il successo dello sbaracco che fa il pieno, tutto a prezzi stracciati, e la siccità e il caldo che a Casarsa hanno fatto spuntare gli asparagi. Alcuni appuntamenti di questa domenica: il giornalista storico e scrittore Alessandro Marzo Magno è ospite del nuovo appuntamento del ciclo delle lezioni di storia Le opere dell'uomo, in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 11. Giacomo Marcocci, Gialleufonium accompagnato al pianoforte da Franca Bertoli, è il protagonista della mattinée domenicale di Lignano d'inverno del Conservatorio Tomadini di Udine, in sala d'Arsena alle 11. Concerto conclusivo dell'edizione delle mattinate musicali internazionali, la nuova orchestra Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, proporrà un programma dedicato ai grandi capolavori di Mozart alle 11 nell'auditorium Marco Sofianopolo del Museo Rivoltella. Per il terzo appuntamento di Musica Insieme 2023, il cartellone musicale promosso dal Centro Iniziative Culturali Pordenone, lezione concerto del vincitore del premio Musica Insieme Pordenone 2022, il sassofonista Elia Sorchiotti, alle 11 nell'auditorium della Casa dello Studente Zanussi. Alle 9.15 su queste frequenze radio andrà in onda la seconda puntata di Stracapirse, originale radiofonico di Luciano Santin, per la regia di Stefania De Maria e Riccardo Ciconetti, con Rela Reggio, Marzia Postogna e Valentino Pagliei. La programmazione televisiva regionale prevede alle 9.15 su Rai 3 Lynx Magazine di febbraio, Confinare di Simone Modugno e il documentario Fermata Padriciano di Elisa Cozzarini. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Ora la rubrica Vita nei Campi, prossima edizione del GR alle 12.15. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.